Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız, İtabella'dasınız. Bugün dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi İtalya'da da 1 Nisan yani şaka günü. O yüzden şaka ile karışık şarkıları olsun diye çocuk şarkıları çalmak istedim size. Ağırlıklı olarak Sergio Enrico bizlerle olacak. Vakit kaybetmeden Larka albümüyle başlamak istiyorum. Bu albüm Vinicius de Moraes tarafından yazılan ve başka pek çok sanatçılar tarafından yorumlanan bir çocuk şarkıları albümü. De Moraes ve Endrigo'nun birlikte performansları var. Aynı zamanda Marisa Sania, Derickia Poveri, Vittoria De Sicalzi ki albümde Vittoria De Neutrals diye geçiyor. Bu albümde kendine yer bulmuş ve The Plug adlı bir çocuk korosu da parçalara eşlik ediyor. Şimdi bu albümden L'Orologio, bir saatin tiktaklarıyla başlayan ve karakterize eden çok sevimli bir şarkı geliyor. Passa tempo tiki taki tiki taki vola via giorni e notti tiki taki tiki taki così sia passa tempo passa in fretta con la noia e l'allegria sono molto molto stanco più non penso più non dormo faccio solo tiki taki tiki taki notte giorno giorno e notte tiki taki notte giorno. Passa tempo tiki-taki, tiki-taki, vola via, giorni e notti, tiki-taki, tiki-taki, così sia. Passa tempo, passa in fretta con la noia e l'allegria. Sono molto, molto stanco, più non penso, più non dormo, faccio solo tiki-taki, tiki-taki, notte, giorno, giorno e notte, tiki-taki, tiki-taki, notte, giorno. L'Orologio radyonuzdaydı. Şimdi aynı albümden kökenini ve özgürlüğünü unutmuş Brezilyalı bir papağanın hikayesini anlatan çok şeker bir şarkı gelecek. Sergio Endrigo'nun Vinicius de Moraes ile birlikte işbirliğinden doğan bu parça zavallı bir Brezilya papağanını anlatıyor ve şöyle diyor: zavallı Brezilya papağanı, Brezilya artık çok uzakta, özgür doğdun ama maalesef bunu unuttun. I Papagallo radyonuzda. Ma che bello pappagallo, tutto verde, l'occhio giallo, cosa fai, che cosa vuoi? Parli, parli, parli, parli, parlo, parlo, parlo, parlo. Ma che bello pappagallo, tutto verde, l'occhio giallo, ma che bello pappagallo. Parlo, parlo, parlo, sì. Tutto verde, l'occhio giallo, ma che bello pappagallo. Ma che triste pappagallo, tutto verde e l'occhio giallo, se sei triste cosa fai? Canti, canti come un gallo, canto, canto, canto, canto, sono un triste pappagallo, sempre solo come un gallo, sono un triste pappagallo. Canto, canto, canto, sì, sempre solo come un gallo, sono un triste pappagallo. Pappagallo poverino, ho

e se tu le bevi non sono dolci ma salate come il mare. Vedi solo pioggia e nuvole, non puoi più giocare a rimpiattino, ma soltanto a mosca cieca. Non vedi più il cielo sopra il grattacielo, gli uccelli volare e le stelle brillare. Non vedi i colori dell'arcobaleno, vedi solo il tuo naso, non vedi più in là. Non piangere, non piangere, non piangere mai più. Il cielo, gli uccelli volare e le stelle brillare, non vedi i colori dell'arcobaleno, vedi solo il tuo naso, non vedi più in là. Non piangere, non piangere, non piangere mai più. Non piangere radyonuzdaydı. Şimdi 1949 Ceneva doğumlu Vittoria Descalzi, İtalyan progresif rock grubu New Trolls'un solisti. Aynı zamanda gitarist ve piyanisttir. Şimdi bu rock şarkıcısının az evvel bahsettiğim Larka albümünde yayınlanan bir parçasını dinleyeceğiz. Bak gökyüzündeki arılar ne kadar çok bal yapmışlar diyen Vittoria Descalzi, Le Api ile radyonuzda. E van via di mattina per la bella pancia della peregina. Ronza l'ape che ronza dalla rosa al geranio. Ronza l'ape che ronza dalla rosa al geranio. Dal geranio alla dalia, dalla dalia alla viola. Ronza l'ape che ronza poi ritorna alla rosa. Guarda guarda quanto viene fa le api nel cielo. Guarda guarda quanto viene fa le api nel cielo. Guarda guarda quanto viene fa le api nel cielo. Guarda guarda quanto viene fa le api nel cielo. E la peregina che è il presidente ingrassa la pancia e non fa mai niente. Ronza l'ape che ronza dalla rosa al geranio. Ronza l'ape che ronza dalla rosa al geranio. Dal geranio alla dalia, dalla dalia alla viola. Ronza l'ape che ronza poi ritorna alla rosa. Guarda guarda quanto viene fa le api nel cielo. Guarda guarda quanto viene fa le api nel cielo. Guarda guarda quanto viene fa le api nel cielo. Guarda guarda quanto viene fa le api nel cielo. Le Terapi radyonuzdaydı. Yine 1972 arka albümüyle devam edelim. Bu kez Sardinyalı müzisyen Marisa Sanniani gelecek. Bu parça Kedi Dostlarımıza adanmış bir şarkı. Sözleri yine De Moraes tarafından yazılmış ve bestesi Sergio Bardotti'ye ait. Bir kedinin bütün gün başından geçenleri ve yaramazlıklarını anlatıyor ve sonunda bu kedi bu danstan çok yoruluyor ve güzelce yıkanıyor. Dilini karnının üstünde gezdirerek banyo yapıyor. Il Gatto, kedi radyonuzda. Con un bel salto, lesto e sicuro, il gatto passa dal suolo al muro, poi ci ripensa ed ecco al volo, passa di nuovo dal muro al suolo. Con un bel salto, lesto e sicuro, il gatto passa dal suolo al muro, poi ci ripensa ed ecco al volo, passa di nuovo dal muro al suolo. Quindi con passo quatto quatto fa l'agguato, il gatto matto fa l'agguato, il gatto matto all'uccellino si ferma un tratto. Come ho abbagliato, poi come un razzo schizza di lato, si ferma un tratto. Come ho abbagliato, poi come un razzo schizza di lato, dalla grondaia salta sul tetto a caccia grossa di qualche insetto. Con un bel salto, il gatto passa da solo al muro, poi ci ripensa ed ecco il volo, passa di nuovo dal muro al suolo. Quindi con passo quatto quatto fa l'agguato, il gatto matto fa l'agguato, il gatto matto all'uccellino si ferma un tratto. Come ho abbagliato, poi come un razzo schizza di lato, infine stanco di questa danza si fa un bel bagno. Passa la lingua sopra la panza, passa la lingua sopra la panza, passa la lingua sopra la panza. Marisa Sanya'dan Il Gatto dinledik. Şimdi bir başka kedi şarkısı gelecek. Ben senden siyah bir kedi istemiştim. Sen bana beyazını verdin diye sitemeden bu şarkıyı bana İtalya'da değil burada İstanbul'dan arkadaşım Aliço'nun annesi Ceren öğretti. Ona çok müteşekkirim çünkü bence harika bir şarkı bu. Şimdi biz bu şarkıyı 1963 yılında Maria Leventra tarafından Bologna'da kurulan karma bir çocuk korosu olan Piccolo Coro dell'Antoniana'dan dinleyeceğiz. İtalya'da Lo Zecchino d'Oro adında bir televizyon programı var. Bu programda Uluslararası Çocuk Şarkıları Festivali aslında bu. Bu koro özellikle bu festivaldeki şarkıları yorumlayarak ün kazanıyor. Şimdi 1969 yılındaki Zecchino d'Oro'dan bir parça bizimle olacak. Volevo un gatto nero, siyah bir kedi istemiştim, radyonuzda. Coccodrillo vero, un vero alligatore, ti ho detto che l'avevo e l'avrei dato a te, ma i patti erano chiari, il coccodrillo a te, e tu dovevi dare un gatto nero a me. Volevo un gatto nero, nero, nero, mi hai dato un gatto bianco e io non ci sto più. Volevo un gatto nero, nero, nero, siccome non era una giraffa di plastica o di stoffa, ma una in carne ed ossa e l'avrei data a te. Ma i patti erano chiari, una giraffa a te, e tu dovevi dare un gatto nero a me. Volevo un gatto nero, nero, nero, mi hai dato un gatto bianco e io non ci sto più. Volevo un gatto nero, nero, nero, siccome la la la la la un elefante in via. Volevo un gatto nero radyonuzdaydı. 1972 Ekino doğrusundan Ali Baba bizimle olacak. Ali Baba çölün 120 yağmacısından kaçıp elmas, safir ve pırlantaları bulabilecek mi? Bence mutlaka bulabilecek. Ali Baba'yı 2009 yılında çıkan albümlerindeki yorumuyla Marti e Suoi Amici'den dinliyoruz. Baba radyonuzdaydı. Çocuklara yapma yapma deyip duruyoruz. İşte şimdi ona dair bir tiratla başlayan sıradaki parça şöyle diyor. Dur, kapa çeneni. Dirseklerini masanın üzerine koyma. Dikkatini dağıtma. Adım attığın yere dikkat et. Suyu dökme. Kalemi düşürme. Boya kalemlerini kaybetme. Bahçede oynama. Merdivenden çıkma. Islık çalma. Kapıları çarpma. Ayakkabılarınla oynama. Taşları tekmeleme. Çünkü annenin başı ağrıyor, öğretmenin başı ağrıyor, teyzenin, halanın başı ağrıyor. Çünkü kapının bile başı ağrıyor. Sergio Endrigo'dan Il Bambino di Gesso, Alçıdan Çocuk radyonuzda. Sta fermo. Sta zitto. Non mettere i gomiti sulla tavola. Non essere distratto. Guarda dove metti i piedi. Sta attento a non rovesciare l'acqua. E non lasciare cadere la penna. E non perdere i pastelli. Non giocare in cortile. Non correre sulle scale. Non fischiare. Non sbattere le porte. Non strusciare le scarpe. Non prendere calci e sassi. Sta buono perché la mamma ha il mal di testa. Perché la maestra ha il mal di testa. Perché la zia ha il mal di testa. Perché la portiera ha il mal di testa. Non correva, non saltava, pantaloni non levava, non diceva parolacce, non faceva le boccate, non sporcava i pavimenti, si lavava sempre i denti, non strillava, non rideva, i bastoni non metteva, senza macchie, sui guantini, senza trucchi nei calzini. Hey!

buttava via le rose, buttava via le rose e odorava le spine. Buttava i mari pesci, buttava i mari pesci e mangiava le lenze. Un compare di Barberino, un compare di Barberino, mangiava il bicchiere, mangiava il bicchiere e buttava il vino. Le Pulce ve arkasından Un Signore di Scandici dinledik. Şimdi Coro Fonole Band'den bir şarkı dinleyeceğiz. Sıfır numaradaki bir garip evi anlatıyor. Bu ev çok güzel bir ev ama mutfağı yok, tavanı yok. İçeri giremiyorsunuz çünkü zemini yok. Yatağa gidemiyorsunuz çünkü evin çatısı yok. Ama çok güzel, gerçekten çok güzel bir ev bu. La Casa dei Matti numero zero. Sıfır numaradaki deliler evi radyonuzda. Era una casa molto carina, senza soffitto, senza cucina. Non si poteva entrarci dentro perché non c'era il pavimento. Non si poteva andare a letto in quella casa e non c'era il tetto. Non si poteva fare pipì perché non c'era il vasino lì. Ma era bella, bella davvero, in via dei Casa dei Matti numero zero radyonuzdaydı. Şimdi az evvel de pek çok parçasını dinlediğimiz Sergio Endrigo ile devam ediyoruz. Onun çocuk şarkıları albümünden. Çocuk şarkısı olup olmadığını sorguladığım bir parça bizimle. Şöyle sözleri. Satacak sözlerimiz var. Satın alınacak kelimeler. Kelime yapmak için kelimeler. Hadi birlikte bakalım. Düşünecek kelimeler. Taklit etmemiz gereken sözler var, incitecek sözler ve gıdıklanacak kelimeler. Le parole, sözler, radyonuzda. Abbiamo parole per vendere. Parole per comprare, parole per fare parole. Andiamo a cercare insieme parole per pensare. Andiamo. pensare. Abbiamo parole per fingere, parole per ferire, parole per fare solletico. Parole per piangere, parole per tacere, parole per fare rumore. Andiamo a cercare insieme le parole per parlare. Andiamo a cercare insieme le parole per parlare. Le Parole radyonuzdaydı. Şimdi yine aynı albümden Gianni Rodari tarafından yazılmış ve Sergio Endrigo ve Bacalov tarafından bestelenen bir şiir gelecek sırada. Napolyon isimli parça şöyle diyor. Hayır dediyse evet demedi, oraya gittiğinde bu tarafa hiç gelmedi. Oraya çıkarsa buraya inmedi, Landau'dan koşarsa kahve yapamazdı Napolyon'e. Napolyon'e radyonuzda. Un imperatore si chiamava Napoleone, e quando non aveva torto di sicuro aveva ragione. Napoleone, Napoleone era fatto così, se diceva di no non diceva di sì, quando andava di là non veniva di qua, se saliva lassù non scendeva qua giù. Andava a cavallo e la gente lo stava a vedere, e quando non andava a piedi era proprio un cavaliere. Napoleone, Napoleone era fatto così, se diceva di no non diceva di sì, quando andava di là non veniva di qua, se cascava di lì non cascava di sì, se faceva quando apriva la bro, non chiudeva il combo, se diceva di sì, non diceva di no. Di tutti gli uomini della terra, Napoleone era il più potente. Quando aveva la bocca chiusa non diceva proprio niente. Napoleone, Napoleone era fatto così, se diceva di no non diceva di sì, quando andava di là non veniva di qua, se saliva lassù non scendeva qua su, se correva in lavoro non faceva il caffè, se mangiava un bignè non contava per tre, se faceva pipì non faceva popò. Alleluia. Napoleone radyonuzdaydı. Şimdi bir bal kabağının dramını dinleyeceğiz. Yine Entrego'dan. Kardeşleri omlet yapıyorlar ve kel bal kabağına hiçbir şey vermiyorlar. Bal kabağının şarkısı Sergio Entrego'dan Zucca Pelata ile radyonuzda. E adesso cantiamo Zucca Pelata fatto i tortelli sulla musica di Paraponzi Ponzi Po. Comincio io. Zucca Pelata fatto i tortelli. I suoi fratelli fanno la frittata. E non fa niente Zucca Pelata. I suoi fratelli fanno la frittata. Non danno niente a Zucca Pelata. I suoi fratelli fanno la frittata. Non danno niente a Zucca Pelata. Zucca Pelata ha fatto i tortelli. E non fa niente ai suoi fratelli. I suoi fratelli fanno la frittata. E adesso sulla musica della casa. Zucca Pelata ha fatto i crostini. E non dà niente ai suoi cugini. I suoi cugini fanno il torrone. Zucca Pelata nemmeno un boccone. No, non si potesse cantare goppa una bella canzone napoletana. Zucca Pelata ha fatto le frittelle e non dà niente te alle le sue sorelle. Le sue sorelle le fanno no, il budino no, la Zucca Pelata ta nemmeno non tantino no. Le sue sorelle fanno il budino, Zucca Pelata nemmeno tantino. E per finire, Fra Martino Campanaro. Zucca Pelata fa la ricotta, non vale niente a nessuno, stavolta la lezione è preparata. Un grande zuccone di Zucca Pelata, di Zucca Pelata, din don da, din don da. Questa lezione l'avrà imparata, quello zuccone di Zucca Pelata, questa lezione l'avrà imparata, quello zuccone di Zucca Pelata. Zucca Pelata radyonuzdaydı. Şimdi yeşil çayırlara hasret bir çocuğun şarkısını dinleyeceğiz. İlk başta dinlediğiniz kısımda şunları söylüyor. Bana baharda çayırların yeşil olduğunu söylediler. Ama ben sadece televizyonda çayırları gördüm ve hepsi griydi. Bana menekşelerin baharda çıktığını söylediler. Her sabah kaldırımlara yakından baktım ama menekşelerin belirdiğini hiç görmedim. İlkbaharda ağaçların yaprak ve çiçek çıkardığını söylediler. Benim mahallemde ağaç yok. Sadece ışık direkleri var. Ve onlar çiçek ya da yaprak barındırmazlar. Ho visto un prato. Bir çayır gördüm. Açık radyoda. Mi hanno detto che in primavera i prati sono verdi. Ma io i prati li ho visti solo alla televisione. Sono tutti grigi. Mi hanno detto che in primavera spuntano le violette. Io ho guardato attentamente i marciapiedi ogni mattina, ma non ho mai visto le violette spuntare. Mi hanno detto che in primavera gli alberi mettono foglie e fiori. Nel mio quartiere non ci sono alberi, ci sono soltanto i pali della luce, ma non mettono né fiori né foglie. Yeah. mare c'è una barca, e sulla barca un berretto, in testa un marinaio azzurro, azzurro, azzurro. Strada, bianca, bianca, bianca, ci corre un bambino bianco, bianco, bianco, con un aquilone rosso, rosso, rosso, con un aquilone rosso, rosso, rosso, con un aquilone rosso, rosso, rosso. Ho visto un prato, radyonuzdaydı. Sırada bir önceki programda dinlediğimiz Ricky Poveri'nin de içinde yer aldığı 80'lerin çok ünlü grubunun bir çocuk şarkısını dinleyeceğiz. Vinicius de Moraes, Sergio Endrigo, Ricky Poveri ve The Plug yorumuyla albüme de ismini veren Larka radyonuzda. Eccola l'arcobaleno, la colomba lo accompagna. Scorre limpido e contento il ruscello di montagna. Sotto il velo trasparente della pioggia inargentata brilla il sole allegramente dal torrente alla cascata. Si apre la porta dell'arca, ne vien fuori lieta e franca, l'imponente barba bianca del prudente patriarca. E Noè, vedendo intorno tante morbide colline, dice: guarda che bel posto per piantare le mie vigne. Scendono tutti di corsa, gli animali dal barcone, chi litiga il topo con l'orsa, la formica col leone. Cercano tutti l'uscita con le zampe, con le ali, nella rabbia o la paura ti dan tutti gli animali. L'aquila al canguro e fatemi posto maiali, l'elefante contro il muro. Io sono una paranzina, qui dire non ce n'è più, ora siamo tutti uguali, io davanti e dopo tu. Prima i doni e i bambini, poi la tigre col tigrotto, non mi pestate, credo, si sente dal di sotto, litiga il cane col gatto, come sempre già si sa. E sarà la stessa storia finché il mondo cambierà. Dileguò l'arcobaleno e ricominciò la storia, e spuntò la luna piena sopra tutta la Baldoria. E Noè fu ben contento, dopo tanta e tanta guerra, di sentire quella notte tanta pace sulla terra. Larka radyonuzdaydı. Bugünkü minik destekçimiz Azra'ya teşekkür ederek başlamak istiyorum. Ve o vesileyle bu şaka programını, çocuk şarkılarıyla geçen programı çocuklara ithafen kapatmak istiyorum. Umarım bu yaşadığımız dönem